Vi porto i saluti della nostra direttrice della Biblioteca Provinciale Claudia Augusta, che non è potuta venire oggi. Stasera abbiamo questa interessantissima conferenza con Adel Jabbar, che ha già collaborato tante volte con noi, Fernando Biague e Mauro Codini. E vi volevo solamente dire due parole sulle prossime iniziative che abbiamo, sempre qui al Centro Trevi. Giovedì prossimo abbiamo una conferenza di Marco Pugliese sulla Bolzano di inizio secolo. Il 9 maggio, invece giovedì prossimo, abbiamo una cosa un po' particolare, c'è una conferenza, una presentazione di un libro e di un film insieme, si intitola Mamma Carico il libro, e parla di una storia autobiografica di una signora, di un'attrice che ha una mamma appunto di 90 anni che deve gestire nella sua vita. Quindi verrà presentato il libro e subito dopo c'è anche la proiezione del film. Un'ultima cosa, volevo ricordarvi che la Biblioteca Claudio Augusta ogni venerdì dalle 3:30 alle 4:30 presenta la Biblioteca Digitale della provincia di Bolzano, che è una cosa che ancora non tutti conoscono ma è molto interessante. È una biblioteca digitale aperta chiaramente 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, potete entrarci da casa, basta essere iscritti a una qualsiasi biblioteca della provincia di Bolzano, e ci sono tantissimi contenuti, tra cui più di 4.000 periodici di tutto il mondo in versione integrale da consultare gratuitamente, e parecchie altre cose come banche dati, ebook, quasi 30.000 ebook da scaricare e musica da scaricare. E vi consiglio veramente di darci un'occhiata e se avete voglia di venire in biblioteca, perché vi facciamo vedere un po' come si utilizza bene questa biblioteca digitale. Adesso lascio la parola a loro e buona serata a tutti. Grazie. Grazie Fabio. Grazie a Fabio, grazie a voi che siete arrivati in questa sede per ascoltare e anche per vedere alcune immagini che Mauro Codini sulla mia sinistra ha preparato, e poi per anche ascoltare Fernando che racconterà alcuni momenti, passaggi delle persone che ha intervistato per costruire un suo libro, Il progetto migratorio, gli stranieri raccontano, che è uscito alcuni anni fa qui a Bolzano. Quindi questo incontro fondamentalmente, come titolo, come avete visto nel titolo, Storie migranti e memoria futura, e certamente oggi è il presente, però è il futuro già del passato, perché del passato, di alcuni racconti e di alcune immagini, perché negli ultimi 10 anni diverse persone in provincia di Bolzano hanno scritto, hanno anche nel caso di Mauro ha prodotto delle immagini molto importanti. Quindi già siamo nel futuro di quel percorso precedente, insomma. Per cui questo incontro speriamo che poi più avanti, dopo l'estate, ci sarà un secondo per presentare altro materiale che è stato prodotto qui in provincia di Bolzano. L'immigrazione ormai, come ben sapete, è un discorso quasi quotidiano. Nel notiziario del mattino, alla radio, alla televisione, le immagini sia in televisione che sui giornali, social network, raccontano un fatto che è diventato parte della vita di molte persone. A volte preoccupa, a volte spaventa, a volte ci fa venire delle domande, a volte ci spiazza, a volte non si sa come fare, a volte ci fa sentire anche impotenti di fronte anche delle sofferenze, dei dolori, delle richieste di aiuto, e quindi il mondo si rimpicciolisce. Ma l'immigrazione ha questo effetto, rimpicciolisce il mondo, perché quello che vediamo, quello che viene letto sulle pagine dei giornali, ci porta notizie di persone che una volta sembravano fossero lontane, invece sono sempre più vicini. Anzi, cominciamo a vederli nei nostri condomini, nelle piazze delle nostre città, nei mercati, sull'autobus, per strade, nei negozi, comprano, vendono. E quindi insieme ai bambini a scuola, insieme ai giovani nei campi sportivi, e quindi è una realtà che dimostra che il nostro contesto ormai è già futuro, non somiglia più a Bolzano di quelle di 20-30 anni fa, e c'è qualche altro Bolzano che sta crescendo, no? Magari a volte alle nostre insaputa, a volte anche alla nostra, come dire, non consapevolezza della portata anche di quanto sta succedendo. Cambia, quindi cambiano i contesti urbani, cambiano i profumi, cambiano i colori delle persone, i profumi passando di fronte ai negozi. Sentiamo, poco fa con Mauro siamo entrati in un negozio a cercare bamia e mi fa Mauro: ma cosa puoi tradurre per favore? E te, ocra, fa poi qualcosa di esotico, non so, una cosa che si trova anche in Grecia, no? E poi gli ho fatto vedere e gli ho raccontato un po' la storia di questa ocra, che mi fa ricordare a me, no, la mia infanzia, il cibo che piaceva molto a mio papà, a me non piaceva, però adesso li vado ogni tanto a cercare. E anche se, come dicevo, non ho fatto grande pubblicità, vero? Ho detto no, un po' insulso come verdura, però per non prenderlo fresco, però c'è comunque, se attraversate, quando uscite di qua, attraversate le strade, c'è un negozio di persone, gestite da persone pakistane, troverete già una cesta in vetrina, una verdura verde, e poi le troverete anche congelate, è migliore, no? Di quello che è fresco. Sta facendo pubblicità. No, per dire che magari una volta questo frutto era impossibile trovarlo a Bolzano, quello che dico. No? Cioè, fra poco ci sarà il mango fresco che viene del Pakistan, che è molto buono, molto profumato. E quindi per dire ci sono tutta una serie di anche profumi, di gusti, di frutti, di verdura, ma anche di volte umani, che non sono più quelle che hanno caratterizzato magari la vita di molte persone standosi nello stesso posto. Allora, per questo il nostro percorso, direi, inizia con Mauro Pudini, ha un cognome impegnativo, ma lui non c'entra. Ho spiegato anche io la storia. Cioè, non ha quella fioritura che dovrebbe essere, no? Ma non posso dire più di tanto. Ma non sto male. Non è stato. Forse sto meglio. Bene, Mauro Pudini è un regista, ha fondato insieme ai colleghi una società, Helios, del 2001, che conduce, diciamo, una serie di lavori nell'ambito della comunicazione sociale, attenti alla questione naturalmente delle fasce deboli, alla questione dell'ambiente, quindi da anni è impegnato a produrre anche filmati riguardanti, documentare le voci, i volti delle persone emigrate a Gerata, la provincia, è stato, insomma, ha raccontato, ha fatto raccontare alle persone la vicenda umana che li ha portati qua e anche il loro desiderio per il futuro. Mauro ha lavorato in questo periodo veramente anche tanto per mettere insieme quasi 10 anni di immagini e li ha concentrati in 15 minuti. Quindi direi che noi possiamo partire da queste immagini e Mauro commenterà la storia, le vicende un po' particolari di alcune di queste persone, che non so se ci sono ancora, cosa stanno facendo, magari se li ha incontrati ancora. E poi passiamo dopo a Fernando Biagua, invece psicologo, ricercatore, molto attivo, scrive, indaga, ultimamente ha presentato una ricerca sul cibo consumato dalle persone d'origine straniera, a proposito del fatto il discorso sull'ocra per te, così per anticipare i ragionamenti. Mauro, Fernando ha scritto questo libro, Il progetto migratorio, gli stranieri raccontano, ha ricostruito la storia, le testimonianze di 5 persone, poi intorno a questo racconto è andato ad affrontare tanti temi, la problematica dell'immigrazione, il rapporto nord-sud del mondo, il divario di sviluppo, il divario di reddito, le aspirazioni, la problematica della marginalità, quindi in pratica un atlante questo qua, o accademicamente parlando possiamo dire un manuale, perché ha trattato molti temi. E quindi un libro molto vario, un libro in qualche modo migrante, no? Perché tratta diversi temi e cerca di metterli insieme in questi quasi 300 pagine. Ebbene, io non voglio dilungarmi perché il tempo a disposizione è sempre poco. Partiamo col filmato, pronto? Sì. Partiamo col filmato, poi vedremo, ascolteremo il racconto di Mauro e di Fernando. Grazie. Un applauso a Mauro e Fernando. Anche un applauso alle verdure e all'ocra che non conoscete, eh? Scusate. Octavia, che sta spiegando, perché lo conosce? No. No, allora cosa sta spiegando? Stavo illustrando una cosa che non conosce. Cosa facevi tu, dice. Va bene. Potreste venire un attimo? Non vendiamo niente, eh? Siamo senza merci oggi. Potete venire davanti, per favore. Parte? Sì. Io dico due cose, magari intanto allora. abbiamo... Sì, in realtà 10 anni, diciamo che non sono proprio 10 anni di immagini, sono in realtà il riassunto di 4 filmati. Il primo è del 2006, 2007-2008, e poi di recente, 2 anni, un anno fa, Tutti i frutti. I primi 3 vorrei solo dire che sono stati finanziati, evoluti fortemente dall'allora Centro di tutela contro le discriminazioni, diretto da Salvatore Saltarelli. C'è qui Mamadou Gaye, che con lui, Karim Girotto, poi chi era? Girardi, che ora si è trasferito. Insomma, abbiamo iniziato questa avventura. Dico solo prima di farlo finire. Allora lasciamo. Grazie. Salve. Meno male che sono arrivati tutti extra alimentari, così si mangiano i buoni panini. Cosa mettiamo sulle patate? Un po' di ketchup maionese? Salam aleikum. Rahmatullah. Mister, vi ringrazio, buona fine settimana. Ciao. Ciao grande uomo. Allora, io sono Ramani Safet, vengo da Montenegro. Dallo 84 in giro per Europa. E dal 92 in Italia. Avevo un po' di insalata? Dal 92 sto risvolgendo l'attività qua della gastronomia. Cucina albanese, cucina balcanica. Avi? Pannina, a posto. Shukran. Un attimo solo, Discriminazione succede dappertutto. Nel mio paese, per esempio, parlo che c'era discriminazione quando una persona arrivava da dalla montagna, no? Arrivava alla città e tutti lo guardavano in maniera strana, avevano sfiducia, pensavano che era diverso, che aveva meno possibilità e così. Penso che quel pensiero sia dappertutto, anche qua. L'italiano ci guarda a noi come se uno fosse diverso, come che uno ha meno possibilità, come che uno avesse meno capacità, e a volte non è così. A volte non è così. Ich bin immer ein Ausländer. Verstehen Sie, was ich meine? Ich war in Deutschland, ich habe in Deutschland gelebt, aber ich war der Michele. Ich war der Jugo Michele, aber ich wurde zu der Gesellschaft akzeptiert. Hier wirst du nicht zu der Gesellschaft akzeptiert. Ob du gut bist oder schlecht bist, wirst du nur vorbeurteilt. Io l'ho fatta l'esperienza di essere immigrato e non è vero che noi italiani abbiamo fatto la stessa cosa di quello che stanno facendo in questo momento quelli che stanno arrivando qua in Italia. Perché noi là andavamo a lavorare. Cioè adesso non è questione di essere razzista, però comunque vengono qui, hanno più agevolazioni di noi, hanno tutto subito. Grazie. Poi è migliorata la situazione da quando sono arrivati i stranieri. Non hanno più parlato male di noi. Hanno cominciato a parlare male di albanesi, di tunisine e cose, no? Però altrimenti eravamo a pari di loro, come ci trattavano. Siamo degli albanesi da Montenegro, dalla ex Jugoslavia, abbiamo sofferto da più di 50 anni sotto il regime di Tito, siamo rimasti senza autonomia, io del maltrattamento l'ho già vissuto, sono arrivato qua in Italia, mia moglie è di qua, però dirti la verità, dopo un anno che ero qua in Italia io volevo ritornare a casa mia. Ho venduto anche terra per vivere qua in Italia. Perché non torno io dietro? Un motivo. Dal primo giorno, quando sono venuto mia famiglia qua in Italia, sono cominciato scuola italiana. E oggi cosa devo fare? Se torno là in Kosovo, io sono veramente là un albanese. Però cosa sono i miei bambini? Stavamo parlando e vediamo, io provo questo ultimo anno, vediamo se va bene, se non va bene, cambia. Perché non c'è niente da fare, devi cercare altro lavoro. Io ho perso tanti soldi con quello. Speriamo che va avanti. Io adesso sto provando di fare due computer lì per aiutare, diciamo. Sta cercando un po' di soldi di qua, amici, aiutati per fare due computer. Ciao, ciao. La clandestinità sia, non finiva mai. I clandestini vengono dal mare, via mare, via anche sotto mare, possono sempre vengono. Deve accettarlo. Se loro fai questa selezione, deve accettarlo, farlo per me. O mandarlo indietro, o farlo un permesso circa un lavoro, lavorare, se non mandarlo indietro, come fanno altri paesi, Francia, per esempio. Tanti gente di qua hanno bisogno di noi, del nostro lavoro, perché il nostro lavoro gli italiani non lo fanno. È difficile stare 24 su 24 in una cassa rinchiusi con una signora anziana, però ti sacrifichi perché non c'è altra scelta, deve fare, specialmente quando hai la famiglia, bambini, deve andare avanti. Sì, figli ucraina, due figli maschi, anche nuori, due nipoti, tutti ucraina, io sono qui. Lavorato 4 anni, una signora, una famiglia, adesso mia signora è ricovero, io senza lavoro cerco lavoro adesso. Siamo dappertutto, non è che solo Italia, è piena tutta Europa. Stiamo migrando perché per cercare qualcosa di meglio, no, forse non per noi, per altre generazioni che li vengano dentro. Allora, il posto di lavoro io ho studiato, ho un diploma in informatica segretaria e quando sono arrivato qua mi sono ritrovata senza documenti, clandestina, e per forza sono andata a lavorare a una parrucchiera alla stazione Termini. E lì ci ho lavorato 2 anni in nero. Quando hanno messo la legge per regolarizzare clandestini, ho pagato come tutti, ho avuto i miei documenti, ho fatto un contratto di lavoro e dopo questo, subito quando sono arrivato qua, tutti i soldi che avevo risparmiato a Bolzano, mi sono trovato molto bene, ho aperto la mia prima attività. Certamente non sono l'unica, magari tanti altri non lo diranno, tantissimo hanno dovuto pagare per avere un contratto per poter avere i documenti, perché altrimenti nessuno ti fa il contratto. È anche molto triste. Ci sono tantissima gente che stanno qua da 5 anni, 7, 8 anni, non hanno documenti, magari sono morti i loro genitori, loro mamma, loro padre e non possono andare perché tutti i loro genitori che si trovano in Africa contano molto su di loro e non possono andare con le mani vuote dopo 8 anni che hanno fatto qua e rischiare di non più poter tornare ancora indietro. È veramente triste perché io l'ho vissuto. Non c'è, no. Già morti, no. 3 anni fa è morto mio papà, io ero qui, anche lui. Questo non posso dire con parole, non posso dire, piangevo tanto, tanto. Sì. E così è passato, e così è passato. Devi abituarsi per tutto, come vieni devo abituarsi per tutto. Questo non è facile, vita così non è facile. Difficile, no? Speriamo anche da noi vieni. Buon tempo, si cambia la nostra politica, questa prima cosa brutta la nostra politica, per questo siamo qui, sì, come orfani siamo qui, sì. Ormai, noi siamo nati un po' in un tempo sbagliato e in un paese sbagliato, credo. I prezzi sono come dall'Italia. E qua guadagni 150, là puoi guadagnare anche 1500, no? Salari contro la regime in Italia. Saranno, come si dice, le buste paghe? No. Stipendi. Stipendi normali che potevi vivere, non andava nessuno fuori. Da molti in altro paese. In Italia, Roma, in Cina. Perché i romani sono rimasti pochi adesso qua, nel nostro paese. Tutti sono in Italia, Spagna. Tutti. Ma tutte che non è vero, farà. Ma data mi dica che tutti hanno buscato femmina, questo non posso dire. Stiamo soprattutto si copi di scuola. Ha detto che hanno paura che sentono il TV che in Italia, in Spagna, sparano le donne, non giovani ragazzi e poi bambini spariti. Ormai è passato già un anno, perché mi tirava forte, sai. Mi ha portato poi nella sua stanza e ha cominciato di picchiarmi, di urlarmi ancora. Io sono scappata via in bagno, volevo chiudere la porta con le chiavi, poi non c'era le chiavi, poi piangevo, piangevo forte e lui al fine è entrato tutto incazzato, diceva ma smetti, non hai smesso di piangere e ancora mi picchiava con i pugni, in bagno mi ha tirato 2 pugni qua, e poi mi ha preso qua, mi ha buttato sul suo letto e mi tirava ancora pugni, non lo so, tanti, tanti, e io urlavo di dolore e poi... mi voleva spogliare ma non riusciva. Una storia ho sentito adesso, loro ho fatto 2 giorni tipo, c'è un marito, ha fatto un bambino con lui, piccato tante volte, lui picchia e dopo l'ha scappata e ha fatto una storia di lei, TV italiana quella, un marito italiano, non straniero, non niente, questo è un mondo, esiste tutte le cose, io ho pensato solo al nostro mondo, ma no. Per quello io non voglio più ragazzi, neanche romeno, neanche italiano, neanche, non so quale, do quale è uno buono, no? Io non c'ho più la fiducia di loro. La legge è cambiata. Ma veramente, io sentite una donna picchiato un uomo. No, un uomo picchiato la donna. E lui è andato a fare... Lui è andato a fare la denuncia, la pulizia, questo uomo. Noi siamo passati da un modello di emigrazione a un modello di immigrazione, e immigrazione non vuol dire delinquenza, era il punto importante del mio programma al Ministero, e proprio per quello che io sono uscita fuori e ho detto io sono nera, non sono di colore, perché quando uno poi deve girare attorno alle cose mi fa sentire come se fosse un problema, ma io sono nera, è il mio colore, cioè non c'è bisogno di girare attorno, perché non sono un problema. Sì, qua con le case per gli stranieri è un po' bisschen schwierig zu haben, eh? Die Einheimische hier, sagen wir nicht alle gleich, ne? Da haben schon ein bisschen Angst für die Ausländer, was? Ist normal, denn die Einheimischen sagen, die Ausländer denn so, die Ausländer machen das, die Ausländer. Zum Beispiel im Drogenhandel, die Ausländer stohlen, die Ausländer keine Arbeit, die Ausländer, dann ihren Ausländer meine Wohnung geben, aber schon danach sagt zu mir, er mit zwei Leuten, nach einem Monat sein 10 Leute drinnen, die wohnen, verstehst du mich? Und die Ausländer, muss man sagen, auch die Ausländer machen ein bisschen auch Fahle, wenn ich eine Wohnung kriegen, dann muss ich auch danach, dann ich von der Wohnung rausgehen. Zum Beispiel, man muss die Wohnung sauber lassen, wie ich gewesen ist, ne? Zum Beispiel nicht. Die Kinder mit Kuli, da muss man halt das Wohnen sauber lassen. Denn ich als Ausländer die Wohnung nicht sauber lassen und gehe, dann kriege ich keine mehr. Da un anno fa che cercavo di comprare una casa con mio marito, e tramite un'agenzia, e siamo arrivati proprio a un punto di risolvere tutto, il prezzo e tutto, e la proprietaria ha appena saputo che siamo albanesi ha proprio detto chiaro e tondo che non voglio albanesi qua. Bolzano è un territorio di laboratorio, un laboratorio costante, e in questo laboratorio costante siamo entrati noi come nuova realtà, cioè i neocittadini e gli immigranti. E in questo laboratorio dobbiamo lavorare e portare avanti l'idea di rafforzare questa multiculturalità, questa ricchezza che è già all'interno del territorio dell'Alto Adige. Io giro il vostro applauso a loro, perché anche riguardando adesso queste immagini, sentendo le loro storie, ma devo dire che sono molto grato del fatto che abbiano raccontato, no, davanti a una telecamera, e ci abbiamo messo la faccia. Non è anche raccontare sulla, oggi la chiamiamo violenza domestica, in questo caso Ramona che racconta di questa cosa, della violenza subita, oppure del lavoro in nero, e sono tutte testimonianze, devo dire, ecco, certamente mi hanno riemozionato, spero anche voi, ma hanno anche, io poi cerco anche di lasciare qualche sorriso, qui era un concentrato ovviamente di 2 ore abbondanti, 15 minuti è un po' difficile, però insomma credo di si restituisca comunque un pochino l'evoluzione, no? Mi sembrava di capire che dal 2006 a oggi comunque c'è un percorso, e io ricordo anche col primo Tracce di discriminazioni, il tema era appunto, come dice il titolo, sulla discriminazione, si trattava di capire un pochino quali fossero le discriminazioni, che poi a badar bene non è che sono molto diverse oggi da allora. Cioè il discorso del trovare un alloggio, di trovare un lavoro, all'epoca si parlava molto anche del permesso di soggiorno, che era molto, ora mi pare se ne parli di meno, ci sono anche altri problemi, però insomma devo dire che insomma si sentiva l'intento era quello di dare voce agli immigrati, era una cosa abbastanza nuova all'epoca. Mamadou, che è qui in sala, abbiamo fatto un sacco di discussioni a proposito, e l'obiettivo era proprio quello di cercare di mettersi dall'altra parte e dare voce agli immigrati. E solo in quel primo caso voi vedete anche un piccolo estratto di Bolzanini che dicono la propria, se non il resto abbiamo lasciato sempre parlare gli stranieri. Forse ricorderete qualche intervento di qualche Bolzanino, sono stereotipi che esistono tuttora, probabilmente ci vuole molto molto tempo perché questi cambino. E li abbiamo messi perché a un certo punto ci sembrava anche, ma aspetta, forse sembra che adesso si stanno lamentando di qualche cosa che non corrisponde e non risponde alla realtà. Invece è bastato andare un attimino così in Piazza Gries e il polso era quello lì. Penso che non sarebbe tanto diverso oggi se si ascolta un attimino le discussioni che ci sono al bar, insomma. E quello che si ricordo che ho, e che forse vi è anche vi è stato trasmesso tramite il primo filmato, era anche un po' quello della ricerca dell'identità. Paola, per esempio, che oggi insomma ha fatto un grande percorso, Paola Carbajal, che è stata anche presidente della Consulta, ma è tuttora, forse, scusami, adesso. Sì, vero, sì, sì. E niente, lei appunto racconta che comunque, no, ci dice, questo è importante per noi da sottolineare, la discriminazione in realtà non è, esiste dappertutto, in ogni paese, cioè noi come esseri umani abbiamo la tendenza di semplificare le cose, no? E quindi anche di definire l'altro e di definire se stessi. E mi piaceva molto adesso come finisce il primo estratto di quel signore del Kosovo, che dice: io sono albanese, ma che cosa sono i miei figli che hanno studiato, vissuto qui? È da lì che nasce, no, un pochino la dicotomia. E mi pare anche che nel 2006 ricordo anche che si parlava con Salvatore Saltarelli, che vedo adesso qui, che ho menzionato prima, che è colui che ha dato il via a questa serie di Così vicini, così lontani, tramite l'ufficio, appunto voglio ricordarlo, Centro di tutela contro le discriminazioni, che purtroppo oggi non esiste più, o meglio esiste in una forma un po' diversa, con un altro nome. E niente, all'epoca forse si cominciava a sentire veramente che più o meno lavoravano quasi tutti gli stranieri, ma non erano più in grado di spedire a casa il necessario per mantenere la famiglia, e molti già allora cominciavano a pensare di ritornare. Michele Safet, che avete visto, forse ricorderete alcuni di voi perché è stato un paio d'anni qui proprio di fronte alla stazione, c'è cioè il suo chiosco, bistro, e ecco, lui per esempio è uno di quelli, come tanti altri, che è ritornato poi in realtà. Con buon lavoro a tutti, se posso provare velocemente a fare questo volo pindarico. Lì si è parlato del tema lavoro e il permesso di soggiorno, ricordo, era veramente un tema molto sentito, perché perdevi la casa, non potevi rinnovare il permesso di soggiorno, insomma era una situazione un po', c'era la Bossi-Fini, insomma c'era una questione molto problematica, e poi c'era anche iniziava veramente, i dati stavano aumentando, sì, perché ricordo, volevo dire appunto nel 2006, ricordo che erano 20.000 gli stranieri in Alto Adige, già, ah cavolo, ma stanno raggiungendo il numero dei ladini qua in Alto Adige, sta diventando una terza comunità. Poi voi ci insegnate che non si può assolutamente prendere gli stranieri come un blocco unico e paragonare come una quarta identità. città, perché in realtà portano un sacco di... sono tante lingue, tante culture, tante realtà diverse. Sì, con Buon Lavoro a Tutti mi era rimasta anche molto impressa la situazione delle badanti. Si parlava molto nel 2007, in quel periodo lì, sulla situazione delle badanti, e appunto penso che le immagini e alcune frasi come "siamo tutti orfani" non abbiano bisogno di commenti. Poi c'è stato appunto, proprio forse sull'onda dell'immigrazione al femminile, che è molto sentita, molto alta, soprattutto se parliamo appunto delle donne dell'est che vengono qui soprattutto come badanti, poi anche dell'America Latina, sono molte, anche abbiamo anche la presidente, abbiamo anche qui la Isabel, no? Per esempio anche per amore, sono arrivate qui, e comunque c'era questa realtà qui delle badanti che ci aveva fatto pensare molto, e quindi abbiamo pensato con la terza e ultima, il terzo e ultimo filmato della serie Così Vicini Così Lontani, con Come Due Sorelle, di raccontare in forma un po' diversa, un po' più documentaristica, la storia di due donne molto diverse tra loro, una proveniente dal Marocco, Khadija, e una invece dalla Romania, che si trovavano a vivere all'epoca sotto lo stesso tetto, presso la Casa della Solidarietà a Bessanone, e da lì si vede che nonostante le differenze queste due donne trovino la forza per aiutarsi a vicenda. Adesso qui avete avuto un piccolo estratto, comunque sono, insomma, Ramona l'avete capito un pochino la sua storia, e lei praticamente ha cercato qui di tenere la sua bimba, però non è riuscita a lavorare, a tenere la sua bambina, quindi ha dovuto fare ritorno in Romania, riportare la sua figlia che non ha visto crescere, perché i primi 8 mesi ha vissuto proprio con i nonni, poi è andata a riprenderla, l'ha tenuta qualche mese, e poi vedendo che non ce la poteva fare a lavorare, a tenere, nonostante anche l'aiuto dei servizi sociali, devo dire, ha deciso, e quello è il periodo in cui siamo entrati noi, diciamo, nella sua storia, di riportare Andrea, si chiamava la bambina, nel suo paese. Quindi potete anche immaginare un po' lo strazio. In più si aggiungeva questa storia parallela di questa violenza subita. Se posso ancora dire, se anche sulla violenza domestica, per esempio oggi rispetto al 2008, era l'anno di Come Due Sorelle, ne sappiamo molto di più. Quando Khadija si mette a ridere e a raccontare, io pensavo che solo qui, cioè solo da noi, gli uomini picchiassero le donne, non qui, no? Questo è un pochino anche un cliché, no? Che siamo stati per anni, credo, abituati a viverlo così, e solo adesso, negli ultimi anni, sappiamo molto bene che il problema della violenza domestica non è assolutamente un problema legato alla nazionalità. E in Italia, come in tutti i paesi, è sentito. Pensate che la legge dello stalking è del 2009 in Italia, ma potremmo andare indietro, perché il voto delle donne, voi l'ho insegnato, insomma, che non è poi cosa tanto passata che le donne possono votare, no, in Italia. Quindi ecco, ci ricorda che tutto è un po' relativo, e piano piano, secondo me, la cultura si cambia, si può cambiare, cambia comunque, e quello che poi è l'ultimo messaggio con tutti i frutti più recente, come dice Teodora, questo laboratorio, no? Bolzano in fondo è un laboratorio in sé, perché qui già da anni è iniziata questa ancora oggi non si parla cos'è italiano, di chi è italiano, chi è tedesco, eccetera. Adesso, arrivando i nuovi cittadini, con l'arrivo dei nuovi cittadini, di nuovo si ridiscute su che cosa sia l'identità. E l'identità probabilmente è veramente qualcosa che, come mi piace, cito Cossì, uno scrittore che anche ha fatto parte del film Tutti i Frutti, dice: l'identità non è una cosa che si può mettere in un congelatore, l'identità è qualcosa che si evolve continuamente. Oggi probabilmente, magari, chissà, dopo questo incontro usciremo da qui magari con un'idea in più, un'idea diversa, oppure confermeremo dei nostri cliché che avevamo in testa, dei nostri pregiudizi, perché comunque di pregiudizi siamo fatti, però dobbiamo essere comunque aperti, penso, ci provo personalmente, a metterli sempre un po' in discussione. Ecco, questo è un po' il percorso che volevo raccontare con questo. Grazie Mauro, grazie mille. Fernando, come diceva prima, ha scelto 5 voci e intorno a queste 5 voci ha costruito in qualche modo una riflessione che contiene il libro, che ci sono qua, come vedete, alcune copie. E il progetto migratorio, gli stranieri raccontano. E leggendo il libro di Fernando mi ha fatto venire in mente una frase pronunciata da un immigrato che mi è sembrata molto bella, per cui ve la leggo e le pongo come domanda a Fernando. Il tempo dello straniero costa caro, è un sacrificio senza contropartita. Un po' la testimonianza che il film di Mauro, no? Quindi c'è un investimento, però accompagnato di molte domande. E non a caso, anche in una pagina del libro di Fernando, ho trovato questa espressione che recita così, insomma, che l'emigrato acquisisce un handicap acquisito. Quindi questo è uno dei paradossi, che i migranti, quando abbandonano i contesti di origine, spesso la motivazione è quella di arrivare alla terra promessa, però quando arriva alla terra promessa, altro che terra promessa, è il Bronx. È una della signora romena e ucraina, e dice come uno si sente come un orfano, no? E in effetti nella letteratura degli emigranti di solito anche alcuni si definiscono se stessi come un anello di una catena che si è perso. E quindi questo handicap acquisito nella terra promessa, come ti è venuto in mente? Grazie Anel e grazie a tutti i presenti. Io mi chiamo Fernando Biagüe, vengo dalla Guinea-Bissau, un piccolo paese nel nord occidentale dell'Africa, però sono in Italia da 30 anni, quindi ho fatto tutti i miei studi qui e quindi adesso negli ultimi 13 anni sono qui in provincia. Quando sono arrivato nell'85 in Italia da Vicenza, appena solo 2 settimane ero già qui in provincia di Bolzano, perché qui in provincia c'era da piano, c'era la signora Clara Sic, che era la mamma del missionario padre Ermano Battisti, che ha lavorato in Guinea per 40 anni, un uomo speciale che ha aiutato il nostro paese, aiutato noi giovani a venire in Italia, ma non solo. Ecco, questo per dimostrare come tutto questo libro racconta le storie, ma anche riporta la mia storia di migrazione, perché appunto io ho voluto anche ricordare questo impegno molto incisivo nel nostro paese, che questo missionario purtroppo recentemente non c'è più, però ha lasciato una traccia molto indelibile nel nostro paese. Ecco, venendo adesso a quello che mi diceva il collega Jabbar, nella mia analisi, tra l'altro anche qui per riprendere le parole di Mauro, ho utilizzato proprio questo titolo per dar voce a noi immigrati, perché non è una questione della società italiana, ma è quasi in tutti i paesi di immigrazione, ma soprattutto paese con una storia recente di immigrazione, dove l'immigrato viene visto sempre come una persona debole, no? Abbiamo sentito anche prima la Paola che ha parlato del non riconoscimento delle competenze, della non valorizzazione. Questo veramente, da un punto di vista anche psicologico, è molto mortificante. Quando io arrivo dal mio paese con le mie competenze, con una rete sociale, familiare, di relazioni, ma con anche competenze di lingue, che poi arrivo in un altro paese come Italia, ad esempio noi parliamo portoghese, poi a scuola si impara anche francese, inglese, a seconda della scelta dello studente, uno arriva qui, tutte queste, diciamo, risorse e competenze si annullano. Proprio per questo ho parlato di l'handicapizzazione dell'emigrato. Noi partiamo alla ricerca dell'emancipazione, no? Emancipazione sociale, economica, però, almeno nella prima parte, questa, il nostro arrivo è determinato da questo handicap, no? Che diventiamo come bambini che non sanno parlare. La letteratura francese parla del petit enfant, bambino che non sa ancora parlare, che stenta a dire qualcosa però non si riesce a comunicare. I familiari che non ci sono, gli amici non ci sono, però nello stesso tempo qui non abbiamo ancora avuto il tempo di costruire questa rete, che è molto fondamentale sia sul piano personale, ma anche fondamentale sul piano dell'inserimento, perché noi arriviamo qui prevalentemente per motivi di lavoro. Questo è il problema. Arriviamo qui per motivi di lavoro, e quando mancano queste, diciamo, questi elementi di familiari, di amici che possono concorrere, questo succede anche per i cittadini italiani, riuscire a trovare, quando perde lavoro, riuscire a ritrovare di nuovo il lavoro è facilitato da queste conoscenze qui, che noi però all'inizio, almeno all'inizio, non abbiamo. Poi col tempo si riesce a costruire, col tempo, certamente. Però è questo la prima parte, che noi subiamo questo handicap, soprattutto anche quando non ci sono le strutture istituzionali così, diciamo, capillari, in grado di accogliere, accompagnare e orientare e accompagnare all'inserimento. Allora questo è un grosso problema, perché poi alla fine non c'è l'inserimento, poi si è nel rischio di commettere oppure di mettere in atto comportamenti che vanno contro la legge dello Stato. Io ho, tra le altre mie esperienze che porto avanti nel lavoro, opero da 20 anni ormai, iniziato a parlare anche qui in provincia, nel carcere con i detenuti immigrati, e le storie si riconducono sempre a questo. Se non ci sono strutture sufficienti per favorire l'inserimento, c'è questo rischio di commettere anche reati banali, che poi dopo diventa un problema per reinserirsi, perché una volta che si ha problemi con la legge, quindi con le forze dell'ordine, diventa molto difficile riuscire a riottenere così, diciamo, quel percorso lineare per inserirsi nella società. E questo è un peccato, perché penso immigrati che vengono qui, nessuno vuole venire qui per commettere dei reati. Ci sono situazioni che magari portano a questo, però, e poi qualora questo dovesse anche esistere, però si tratta proprio di una esigua percentuale di persone che commettono reati perché magari non si adeguano, no? Ecco, non so se posso andare avanti, no? Cinque storie, ecco, venendo nello specifico, quando ho scelto questo titolo, a parte, come ho detto prima, dar voce agli immigrati, le cinque storie erano proprio per fare l'introduzione, da questa introduzione poi dopo sviluppare tutta una serie di tematiche macro e micro che fanno parte del fenomeno di migrazione. Ecco, qui c'era una donna, all'epoca si era una ragazza della Romania che ha lasciato il suo paese non tanto per motivi di lavoro, ma perché aveva avuto i suoi problemi esistenziali con la persona, esistenziale sul piano sentimentale, quindi aveva deciso di rompere con il suo passato negativo per venire in Italia. C'era poi una donna nigeriana, quindi ha scelto anche qui sul piano di genere uomini e donne, perché così è il fenomeno migratorio, è così. La donna nigeriana che aveva problemi, seri problemi economici, e quindi l'unica via per lei l'uscita da questa situazione, pur avendo avuto già allora, sposata da giovanissima, poi il marito è morto, avendo avuto 4 figli, aveva deciso di riscattarsi emigrando verso l'Italia, perché aveva anche avuto informazione che in Italia era così facile trovare lavoro, diciamo in agricoltura, anche se lei era diplomata in informatica. L'altra storia era di un ragazzo del Bangladesh che viveva in praticamente in campagna sperduta, che doveva affrontare lavoro da contadino, lavoro forzato, lavoro pesante, che stava tutto il giorno. E quindi a un certo punto ha detto: no, basta, non ce la faccio più, non ce la faccio più continuare a vivere in questo modo, provo a vedere se con l'immigrazione riesco a risollevarmi da questa situazione anche per la mia famiglia. Poi c'era un ragazzo del Marocco che aveva già un genitore qui in Italia, anche dei fratelli, lui è rimasto giù con i nonni. A un certo punto voleva assolutamente ricongiungersi con i genitori, e poi soprattutto lo scopo anche quella, una volta arrivato in Italia, di poter continuare per il percorso di studio. Infatti adesso lui, l'unico con cui ho notizia, lui adesso è ricercatore all'Università di Padova, no? Perché è lì che ci siamo anche conosciuti, no? Quando io ho finito, avevo già fatto il dottorato, poi io ero già qui in provincia di Bolzano, sono tornato per questa intervista, allora l'ho conosciuto, l'ho rivisto e l'ho fatto questa intervista qui. E poi c'era un ragazzo del Perù, lui è partito con la motivazione, è partito perché era costretto a partire, no? Quindi questa è la situazione che stiamo vivendo adesso, la situazione che fino a un anno fa nessuno si aspettava che questa fetta del fenomeno migratorio si osservasse, cioè come rifugiato, scappato, che allora era il periodo del comunismo, ha dovuto scappare dal suo paese, è andato fino prima in Unione Sovietica, e poi dall'Unione Sovietica aveva avuto anche la sorella in Germania, poi da lì per varie cose dopo è finito in Italia, quindi forse era difficile ricongiungersi con la sorella in Germania, quindi è finito in Italia. Ecco, queste sono le 5 storie con cui ho iniziato questo libro, poi dopo ho costruito, ho sviluppato delle riflessioni che, come ho detto prima, toccano sia aspetti macro che aspetti micro. Sul piano macro, che è un aspetto molto spesso noi parliamo, poi alla fine purtroppo i nostri dirigenti sia qui che nei nostri paesi, anche sul piano delle aree geopolitiche, cioè l'Occidente, i paesi sviluppati, nord, sud del mondo, nord del mondo, Africa, Asia, Oriente e via dicendo, noi notiamo che c'è un approccio sbagliato. c'è un approccio sbagliato, perché non si può più continuare con questo tipo di modello di nella cooperazione, che non porta nessun risultato, porta risultato a metà. Non si può continuare con l'approccio che alcune parti ci siano le guerre, che poi non so che cosa servono le guerre per tutti gli esseri umani, siamo tutta un'unica specie, ci siano sempre in continuazione guerre da una parte, perché c'è dietro il business delle armi. C'è l'approccio che non si vuole affrontare le cose concretamente. Io in un'altra occasione ho detto anche, siccome abbiamo questa struttura sovranazionale che sono le Nazioni Unite, che tra gli impegni che ha assunto in un'altra occasione, ad esempio quello si è dato l'obiettivo di eliminare la fame nel mondo, io penso che sia anche arrivato il momento che l'ONU si dia degli obiettivi per eliminare le guerre nel mondo, perché sono le guerre che causano tutti questi problemi qui. Se la gente avessero una condizione stabile più o meno di poter lavorare e vivere, non scapperebbero in queste condizioni qui, pur sapendo che rischiano molto, perché noi qui vediamo le persone che arrivano che purtroppo si annegano nel mare, muoiono, ma ci sono tante migliaia di morti che non si vedono nel deserto. C'è tutta la traversata. Io ho avuto il modo di parlare con tanti rifugiati, ma anche soprattutto con i miei connazionali, ad esempio a Vipiteno ci sono due, poi qui a Bolzano mi sembra tre, così. Ma raccontano delle cose incredibili che qualche volta saltano fuori, cioè passando, attraversando a piedi, anche per questi camion strapieni di persone, si vedono i cadaveri in giro, cioè abbandonati lì, e queste cose nessuno le sa qui, perché non vengono affrontate. Noi vediamo quando purtroppo qualche barconi va giù, si affonda, allora queste cose vengono giù. E quindi questi sono problemi. Se non si affrontano queste cose qui, continueremo ad avere sempre la gente che arriva in situazioni di emergenza, che poi dopo scatenano anche paure. Paure che per certi versi, dal punto di vista psicologico, la paura è una cosa normale, solo che bisogna anche gestirla, questa paura. E quindi questo è il tema importante, cioè ultimamente, no? A parte il discorso della crisi che ha coinvolto tutti i paesi del mondo, ma qui anche l'Italia, però abbiamo visto tra la crisi che ha fatto venire meno le possibilità di lavoro e tanti altri fenomeni, no? Fenomeni che diceva anche Mauro, il numero degli immigrati si sta, c'è stato un arresto dei flussi migratori, addirittura alcuni stanno andando via e stanno lasciando l'Italia. Sono 154.000 permessi di soggiorno che nel 2014 non sono stati rinnovati, e con molta probabilità questi permessi non rinnovati sono dovuti a persone che hanno lasciato l'Italia. Persone che hanno lasciato l'Italia perché non vedono più possibilità di lavoro. Beh, è vero anche che per l'italiano non c'è lavoro, è vero. Qui in provincia di Bolzano abbiamo avuto anche la diminuzione dei flussi, la crescita dovuta alla crescita naturale, non più ai flussi migratori, cioè bambini nati qui. Questo numero in qualche modo ha compensato gli ingressi annuali che arrivavano qui in provincia. Questo poi pone anche il problema dei rifugiati, che per la provincia di Bolzano, rispetto ad altre realtà, il primo anno che ha ricevuto un numero giustamente per il discorso della politica a livello nazionale, della ripartizione equilibrata dei nuovi arrivati, ha ricevuto così un numero elevato. Però, come ho detto prima, cioè, queste cose qui possono essere contrastate con le politiche macrostrutturali. Un fatto che ho dimenticato di dire prima rispetto a questo è che, ad esempio, negli anni, soprattutto negli anni 80 in poi, questo sistema che i paesi sviluppati hanno adottato nei nostri paesi, cioè verso il sud del mondo, dicendo noi vi prestiamo i soldi e voi ce li pagate con gli anni, no? Però nel frattempo hanno messo le tasse di interesse talmente alte che a un certo punto questo sistema qui non era più governabile, quindi sono stati soldi date in quel modo che, siccome anche dalla nostra parte i politici sono corrotti, questi hanno mangiato i soldi senza nessun beneficio della popolazione. Quindi soldi, ingenti soldi, date per il prestito per lo sviluppo che poi non sono andate per quegli obiettivi e la gente è continuata a vivere. E non è cambiato niente. Allora, per questo dico meglio, anzi meglio, è molto auspicabile, ma in maniera urgente, che l'Occidente cambi l'approccio, altrimenti non ce la faremo. Le persone non si riusciranno a frenare le persone, da qualche parte riusciranno sempre a sfuggire ai controlli, non c'è niente da fare, perché poi dopo entrano in questi meccanismi, in questi flussi qui, delle organizzazioni mafiose da qui, dalle nostre parti, che fanno sempre che fanno sfuggire a questo tipo di procedure, cioè meccanismi così rigidi che è impossibile. L'essere umano non si può controllare fino a certi aspetti anche l'essere umano, prima poi non regge il sistema. Allora bisogna trovare un approccio che la gente viva qui bene, ma anche la nostra parte più o meno bene. D'altronde non è che noi non abbiamo risorse. Io una volta sono stato a un convegno dove si parlava della cooperazione dicendo sempre noi portiamo tecnologie, noi portiamo i soldi, noi, dico a un certo punto, non è che si porta solo senza portare niente. Questo cellulare, che più o meno per fortuna tutti abbiamo qui, con una buona facilitazione delle relazioni sociali, anche di comunicazione, e Coltan prodotto nello Congo, se il nome è il Congo, ma tanti altri materiali. Quindi ci sono paesi pieni di queste risorse che però vivono come se non avessero niente. Allora questo è sbagliato, non è vero che non ci sono risorse, ci sono risorse, e basterebbe poco, con tutto il progresso che c'è sul piano tecnologico, di mettere in campo questa tecnologia per sfruttarla e beneficio di voi, di noi che siamo qui, ormai sono qui con la famiglia, ma anche della nostra gente che è giù. Questo è l'approccio, e io penso che il cambiamento di tutto questo sistema può avvenire non soltanto aspettando i politici, perché i politici arrivano sempre forse con 20-50 anni in ritardo, è il cittadino che vive i problemi, perché quando arrivano, quando io sono arrivato mica ho conosciuto all'epoca Andriotto, ho conosciuto la gente normale di tutti i giorni, quando i migrati sono arrivati in questi giorni, più o meno qui noi tutti quanti abbiamo conosciuto tanta gente di buona volontà, aiutato questi nostri fratelli qui. Quindi siamo noi in qualche modo a costringere i politici a prendersi coscienza di questa situazione e a modificarla, altrimenti sarà dura. Grazie. Ma conclusiva del suo intervento, come dire, invitava ad accompagnare l'integrazione tra le persone e non fissarsi su, partendo dalla consapevolezza che l'identità non è qualcosa di congelato, ma qualcosa che è fluido e quindi che viaggia come un viaggio, porta al cambiamento e porta anche ad avere maggiore conoscenza. Così conclude anche in qualche modo Fernando, dicendo che oggi è necessaria un'integrazione tra le parti che appartengono ormai allo stesso sistema, il sistema mondo, no? Quindi mi viene in mente una volta, dopo aver ascoltato la storia di George veniva dall'Africa, da bambino era un figlio di una famiglia contadina allargata, addetta al caffè, e poi fino a un certo punto, quando i prezzi del caffè cominciavano ad andare giù, e il nonno cercava di trattare con i commercianti, con i mercanti del caffè, il prezzo, e quindi diceva: ma come mai l'anno scorso noi abbiamo guadagnato tot, quest'anno è meno, nonostante che la qualità è migliore, che la qualità è più buona, l'annata è buonissima. Allora i commercianti rispondevano a questa signora contadina africana: dice, signora, guardi che il prezzo del caffè è cambiato. E diceva: ma chi l'ha cambiato? Fa: a Londra hanno deciso che il caffè quest'anno costa così. Insomma, scusate, ma il caffè lo coltivo io. So io cosa vuol dire coltivare il caffè, prendere cura del caffè, far crescere il caffè, raccogliere il caffè. Quelli di Londra che ne sanno del caffè? Forse li bevono, ma più di così. Allora, questo è il discorso dell'asimmetria che diceva, l'squilibrio che c'è tra una parte piccola del mondo e una parte grande del mondo. Un squilibrio, qualcuno decide che cosa devono produrre gli altri e qual è il prezzo degli altri. E quindi una delle conseguenze, in effetti George dice: io alla fine ho deciso di lasciare la mia famiglia allargata, della mia terra, di lasciare i contadini per arrivare in Italia. Con i soldi che guadagno forse posso continuare a mantenere la famiglia che è rimasta nel paese. E quindi l'emigrazione in qualche modo è una forma per equilibrare il reddito. Questa è una, certamente una delle spiegazioni di cui Fernando si è soffermato nel suo libro. E quindi l'altro dato, come ricostruire la rete sociale, venire a meno il papà, la mamma, i vicini, i cugini, è venire a meno della risorsa umana in pratica. Quindi l'orfano, che diceva la signora nel film, l'orfano è quello che ha bisogno di ricostruirsi delle reti. Le reti sono fondamentali per poter barcamminarsi nei meandri della vita. Allora, a questo punto penso che voi avete guardato, avete ascoltato, e se avete delle domande, delle curiosità anche rispetto ai personaggi che raccontati da Mauro con le immagini, da Fernando con le parole, o altre considerazioni, credo che sia Fernando che Mauro sono a vostra disposizione. Se posso fare una considerazione? Prego. Sono problemi così grandi che noi nel nostro piccolo veramente possiamo fare veramente molto poco, se non accettare queste persone e avere anche dei rapporti. Ma noi, come lei dice che la politica deve essere spinta dalla base, diciamo, ma veramente siamo impotenti. Soprattutto mi chiedo come mai non si sia mai pensato giù a Pantelleria, visto che arrivano i paparetti che sono tutti a carico dell'Italia, perché non si fanno dei amici della Pasciare, una tedesca, una spagnola, in modo che questi emigranti già all'arrivo possano non essere tutti a carico dell'Italia. Però mi chiedo come mai non si faccia una cosa del genere, perché tutta queste persone che vengono, e che perché vengono in Italia sono a carico, sono a carico dell'Italia, come mai non ci sia una possibilità del genere. Appunto, sono problemi così grandi che non basta l'Europa, ci vuole proprio il mondo, ci vuole l'ONU che decida queste cose. Non, noi possiamo solo accettarli e anche condividere con loro qualche, non so, mangiare delle cose che sono questi negozi, e la curiosità più che la solidarietà. Vabbè. Grazie mille. Grazie mille per questa considerazione, assolutamente è importante, anche per alcuni versi, in effetti dicevano perché non si fanno queste cose qua. Una domanda che io 2 o 3 mesi fa in un articolo sui giornali locali ho sposto: perché non si fanno queste cose qua? Attivare le ambasciate nei paesi di questi paesi. Una domanda molto, potrebbe la mia almeno, non della signora, molto banale. Perché? È una domanda legittima, non ha niente di eccezionale, però davvero perché? Come poi magari Fernando, Mauro. Altre domande, considerazioni? Prego. C'è una cosa che mi fa sempre. Una cosa che mi fa sempre molto. Ma forse gli altri non sentono. Ma prego, prego, venga. Ah, sì. C'è una cosa che mi fa sempre molto, veramente arrabbiare tantissimo, ed è l'abitudine dei giornalisti, dei giornali, delle radio, delle televisioni, di specificare, quando viene commesso qualche reato, la nazionalità della persona se è straniera, sempre, continuamente. Io ho anche telefonato alla RAI protestando di questo, ma sono stata trattata abbastanza male, devo dire. E ho come la sensazione, e non so se mi sbaglio, qui mi rivolgo magari allo psicologo, che ci sia nella nostra società una sorta di bisogno di rassicurarsi dal fatto che sono gli altri cattivi, non siamo noi. Ho questa sensazione, che questo dia una sorta di contentezza alle persone, mentre sono convinta che non sia così assolutamente. Questo viene ancora fatto, mi hanno detto che in Inghilterra, nei paesi anglosassoni, ma comunque in Inghilterra, questo non è permesso, che non si può citare la nazionalità, la provenienza della persona che commette il reato, perché poi anche nell'opinione comune si forma la mentalità, si crede che la maggioranza delle persone che commettono reati siano queste, e non è vero, mi dicono proprio che non è vero assolutamente. Vorrei sapere cosa e perché continua a succedere questo, e perché non si impedisce. Mi sembrerebbe semplicissimo non farlo, semplicemente non citare, non dire, ma non lo so, qualcuno mi può dare una risposta. Grazie. Cercherò qualche cosa. Se ci sono altre. No, io volevo solo, se posso. Sì, prego. La Carta di Roma prevede, dall'ordine dei giornalisti, prevede che non si possa mettere il titolo etnico. Lo fanno certi giornali, qui su 2 giornali lo fa uno solo. Ma credo che mi si senta. E, non faccio nomi, ma un giornale lo fa, un giornale no, di mettere i titoli etnici, e lo fanno ovviamente in maniera pretestuosa. Non troverete mai un titolo bergamasco ruba a un bolzanino, lo fanno con delle etnie precise. La Carta di autoregolamentazione dei giornalisti lo proibisce, viene fatto lo stesso. Non so cosa dire. Poi vabbè, aspetta, sì, ma sì. Comunque c'è un lavoro anche qui in atto, anche sulla Carta di Roma, per esempio, anche non sarebbe assolutamente corretto quando si cerca, per esempio, si offre un appartamento, dire Einheimisch, cerchiamo gente del posto, oppure aiuto cucina del posto. Questa cosa qui, ci sono delle associazioni che lavorano per questo qui in atto agile, l'hanno fatto notare. Io di 5 giornali, Dolomite soprattutto per quello che riguarda, perché mi ha spiegato, perché anche Einheimisch qui è abusato, ma in Austria per esempio, a pochi passi da qui in Nord Tirolo, questa cosa ne sono assolutamente consapevole. probabilmente la gente anche usa questa terminologia, diciamo così, non per, diciamo, discriminare, non sembra proprio quella paura, cioè discrimina sì, ma è perché tu vuoi dire, vuoi cercare qualcuno di qua che conosca la lingua. Ma allora per quello dovremmo ricordare sempre che basta scrivere una persona che parla entrambe le lingue, no? Stesso discorso anche per le immagini, anche qui, no, si fa, cioè, nella cronaca troviamo non solo no, Rom, ma poi magari vediamo le foto, no, di gente, degli stranieri, che vengono proprio fotografati gli stranieri quando potrebbero essere, sono bianchi, sono, non è che tutti gli stranieri hanno il velo, no, per esempio, oppure anche con le immagini c'è sicuramente da lavorare. Bene, altre considerazioni, poi magari lasciamo a Fernando rispondere per le domande, soprattutto che ha risvolti psicologici. Prego. Puoi venire qua o ti portiamo noi? Io vorrei considerare un aspetto anche positivo che sta nascendo anche a Bolzano, e per quanto riguarda i giovani, sta nascendo un'associazione, un gruppo giovanile di giovani di seconda generazione, che sono questi giovani figli di immigrati che sono nati qua oppure che vivono da tanto tempo. E so che magari forse non è molto aderente al video, però mi sembra una buona occasione per poter presentare in maniera breve, e comunque se avete dei figli o anche cittadini, bambini, che giovani universitari che sono di qui, perché se parliamo di due culture parliamo anche di quella italiana e quella tedesca. Io mi riferisco alla mia, che è di provenienza sudamericana. Altri amici come me provengono dalle Filippine, dall'Albania e così via. E quindi se avete magari volete chiedere ulteriori informazioni, io sono a vostra disposizione. Grazie, grazie. Grazie. Bene, credo che dobbiamo anche chiudere, giusto? Abbiamo quanti, 30 secondi? No, vai tranquillo. Fernando, prego. Bene, grazie. Volevo un po' rispondere alla signora Zen dell'ambasciata, dell'impotenza e della distribuzione degli immigrati che arrivano in diversi paesi. Allora, il discorso dell'ambasciata molto spesso, almeno quanto riguarda i detenuti, è molto problematico, perché le ambasciate a volte dicono che loro non vogliono prendersi carico di questi cittadini che arrivano qui, che hanno problemi e che dopo loro devono impegnarsi in questo tipo di, diciamo, di gestione, no? Di questo rientro, oppure anche soluzione di queste problemi che loro hanno creato, lasciando tutta la loro, diciamo, incombenze. Questo è sono le proposte che si stanno discutendo a livello europeo, no? Di come affrontare la gestione degli immigrati con le ambasciate nei punti così di partenza o di arrivo. L'Unione Europea, però, sapete che finché la Germania non dice sì, non si smuove niente, no? Anche l'Italia ha fatto proposte interessanti, anche ultimamente, no? Di queste Eurobond per poter gestire l'immigrazione dal punto di partenza, così anche con aiuto per lo sviluppo, però la Germania non ha ancora accettato, quindi le cose sono lì sospese. E invece per quanto riguarda il discorso dell'impotenza, questo è un po' come dire, noi ce la diamo subito per vinta, quindi pensiamo che non è possibile. Invece la realtà dimostra che invece che a volte c'è una sola persona che porta avanti un discorso lineare, ma coerente, deciso, che alla fine vince. Abbiamo visto con Nelson Mandela, abbiamo visto ma tanti altri leader così, anche l'iraniana, no? Che riescono a fare discorso. Quindi bisognerebbe avere il coraggio di avere una linea e continuare a battere su quello, non mollare, perché quando uno ha un'idea e non è sicuro, allora lì dopo lascia, però quando si è chiari, alla fine continuando si riesce a smontare le cose, altrimenti non si riesce a fare niente. Quindi il discorso certamente non è facile coinvolgere altre persone, però ora solo in piccolo gruppo, no? Senza stare lì a aspettare che ci devono essere tantissime persone, però questo è l'approccio che può aiutare, perché veramente la politica, come ho detto, quasi in tutti i paesi è così, i politici arrivano sempre dopo con i loro sempre calcoli elettorali, tante cose, e invece i problemi quotidiani li viviamo noi tutti i giorni, perché risolvere il problema dell'essere umano, di noi tutti, è un bene di tutti. Questo pianeta è per tutti, allora bisogna trovare il modo di stare insieme. Non che tutti, non sto dicendo che tutti vengano qui, però trovare il modo che la gente viva bene altrove, ma anche qui si vive anche bene. La distribuzione, l'Italia, sapete che c'è questo sistema per cui gli immigrati che arrivano nel paese d'approdo è lì che devono rimanere, no? E adesso l'Italia ha detto no, questo non è possibile, perché alla fine, siccome l'Italia, la Grecia e la Malta sono i paesi più esposti, allora tutto il carico, soprattutto abbiamo visto in quest'ultimo anno, il carico delle derive e quindi anche dell'accoglienza e dell'inserimento ricade su questi paesi. Adesso l'Italia non ha neanche, diciamo, le possibilità di dare lavoro trattandosi di inserimento, perché un conto è l'accoglienza di massimo un anno, un conto è poi l'inserimento, dar lavoro, perché la gente deve, noi arriviamo giovani senza problemi di salute, ho sempre ripetuto che è meglio che le persone lavorano, perché non è giusto che tu sei giovane e prendi aiuti e poi magari sei malato prendi aiuti, quando diventi anziano prendi aiuti. No, questo non è l'approccio, cioè se uno è giovane deve poter essere nelle condizioni di lavorare, di pagare le tasse come tutti, e poi se quando non sarà in quelle condizioni di essere aiutato come prevede la legge, perché giustamente le cose non sempre vanno bene, ci sono alcune fasce della società che non sono nello stesso piano. Adesso vengo all'ultima questione del riporto delle notizie. Riporto delle notizie. E questo abbiamo sempre avuto questo approccio che è diverso, l'approccio italiano è diverso da quello anglosassone, e quindi inglese soprattutto. C'è questo sforzo, questa iniziativa della deontologia dei giornalisti, la Carta di Roma. No? Io mi sono trovato all'Università di Padova nel 2012 a presentare i dati di una ricerca proprio su immigrazione, discriminazione e devianza, e mi sono trovato lì con i massimi, diciamo, i vertici della comunicazione dei giornalisti a livello nazionale, e appunto loro dicevano sì, noi abbiamo prodotto questo documento, però il discorso di non riportare diciamo, l'origine della persona che ha compiuto il reato è una notizia incompleta, ma non solo. Lo dice quello che è sbagliato, quello che è sbagliato è il fatto che i giornalisti riportano, riportano le notizie a seconda se è l'immigrato o l'autoctono in modo diverso, riportano le notizie se il giornale è di sinistra o di destra, no? E le notizie sono riportate diversamente. E se addirittura se l'immigrato, no, compie reato, ci sono elementi che vengono comunicati aggravando, no, elementi aggravando la posizione nel caso dell'immigrato, mentre se l'autoctono ci sono elementi attenuanti. Quindi c'era l'esempio sopra il caso che è successo in in Alto Adige, esattamente in quel periodo lì. A Bressanone c'era un ragazzo albanese che per litigi così con il coetaneo tedesco, di madrelingua tedesca, questo albanese ha preso un sasso, ha tirato a questo ragazzo di madrelingua tedesca, l'ha spaccato tutto il volto, l'hanno preso, il ragazzo portato in ospedale a Innsbruck, in clinica di Innsbruck, per essere curato. Per fortuna pare che tutto sia stato superato. Qui a Bolzano c'era un ragazzo di Merano che era andato da una prostituta, no? Mi sembra ungherese. A un certo punto, non so cosa sia successo, non riusciva più a avere rapporto sessuale con la prostituta e voleva i soldi indietro, no? E la prostituta ha detto di no, naturalmente, no? Cosa ha fatto? Il ragazzo ha reagito ammazzando la prostituta. Ecco, le due situazioni come vengono riportate: da una parte il ragazzo, ragazzo tedesco poverino che è rimasto colpito così gravemente, allora dicono che queste straniere, questi albanesi sono criminali, brutali, no? Queste sono cose riportate nel suo giornale. E invece per il ragazzo qui di Bolzano dicono sei stato deriso perché non doveva reagire in questo modo qui. Vedete come vari protagonisti della comunicazione, della società civile, persone così, che poi leggendo queste, in modo come sono riportate le informazioni, alcuni si adeguano anche come i giornalisti riportano. Quindi in questo modo le persone partecipano alla costruzione della devianza, il fatto che gli immigrati siano più delinquenti degli autoctoni. Ma questo non è vero. Diverse ricerche, diciamo una rassegna molto vasta della letteratura in questo settore, ha dimostrato che in tutti i paesi, analizzando il fenomeno in modo realistico, non è mai emerso che gli immigrati commettano più reati degli autoctoni. I dati, certamente anche qui a Bolzano, parlano di non so 70%, 60% di immigrati che sono dentro, però poi bisogna tutto andare a leggere i fattori che concorrono a tenere un numero così elevato. Sono persone, diciamo così il termine che molte non vogliono, i clandestini, quindi persone che non hanno un documento, non hanno una dimora, non hanno un domicilio, non hanno una residenza. Reati che spesso sono reati strumentali, furto, non sono reati grossi, reati che per la legge italiana così piccole, se per l'italiano ad esempio l'autore di questi reati non finirebbero mai in carcere perché hanno un domicilio dove il giudice, il magistrato può controllare che ci sono lì, magari mettere il provvedimento di firma, non so, giallandiera così, che per l'immigrato, siccome non ci sono, non c'è domicilio, non ci sono documenti, per forza devono finire in carcere, no? Cioè, tutti questi elementi concorrono a determinare il numero così elevato di immigrati. Gli immigrati non hanno, ad esempio, anche i soldi quindi pagare al difensore che possa anche impegnarsi seriamente nella sede dipartimentale per vincere questo, convincere il giudice che il reato non è cosa, oppure le cose non sono andate in questo modo. L'iter processuale del diritto penale italiano va fino al terzo livello. Spesso la grande maggioranza dei processi degli immigrati finisce al secondo, no? Allora, sommando tutti questi fattori qui, alla fine noi ci troviamo con questi numeri qui in carcere, non solo a Bolzano ma anche in altri istituti penitenziari. Io non so se ho risposto. Sì. Mauro? No, grazie. Una piccolissima cosa, la signora in fondo, no, che sì, un secondo, no, dicevo, lo ricordo a me stesso e indirettamente anche a voi. Io vedrei, noi siamo piccoli, non possiamo fare molto, però lei poi faceva accenno della quella curiosità di quel, ecco, io penso solo che comunque avere quella curiosità nei confronti dell'altro, scambiare un sorriso eccetera, non sia affatto poco. È proprio questa apertura che nasce dal basso, che poi alla lunga va a influenzare anche la politica. Se noi non facciamo quei piccoli passi, probabilmente, come diceva anche Adele, la politica di solito arriva dopo, no? Poi adesso impera il populismo, eccetera. Quindi non vorrei dare un valore anche ai piccoli gesti, che sono molto importanti, soprattutto in questa situazione qui che è dirompente, nuova, ecco. Quindi quando sentiamo queste associazioni che accolgono, che danno del lavoro, danno un aiuto, ma anche un sorriso, una stretta di mano al vicino di casa, un nuovo arrivato, è importante, insomma, secondo me. Bene, Mauro, grazie. Questa è la conclusione che viene chiamata pedagogia di gesti, quindi il sorriso, il dare il benvenuto, il buongiorno. No, in effetti, sono cose assolutamente sostanziali, sono cose, sembrano piccole ma non lo sono, perché sono cose sostanziali, producono la diffidenza, aumentano la fiducia tra le persone e sicuramente creano spazi di curiosità e le persone cominciano a interrogarsi. Questa è la cosa fondamentale, oggi abbiamo bisogno, più che di risposte abbiamo bisogno di farci delle domande. Come affrontiamo il futuro insieme a queste persone che vengono da lontano? Grazie, buona serata, e siete stati graziosi e molto partecipi. Grazie.